DJ Double S, y'all. Applausi, prendo fischi come un calciatore in campo, senza rete un campo, maratona la Maradona, ma la mala arriva anche qua allo stadio, lo sport è sporco come la mazzetta di soldi, la gente ultimamente la chiama la fresca, perché rende la ditta fresca, io davanti al banco matti in attesa che esca, la moneta mi serve per prendere questa roba che amo, dividiamo, io sono l'amo, lei è l'esca. In Italia il rap non vende un cazzo come la Dr. Pepper, ma i calciatori fanno più spazio che in America i rapper, in testa il beat che uccide come i sogni, il business mi stresso, mi carico come un video con due mistress, vorrei anche avere intorno una corte di yes man. Vuol dire che sei arrivato al top, giusto? Yes, man! Sogni una ragazza che a letto sia come Moana. Sogno di riempire uno stadio di me. Non si fa, no, non si fa. Si fa, si fa, si, si, si fa. Dico non si fa, no, non si fa. Si fa, si fa, si, si, si fa. Ascolto, ascolto, ascolto il tuo CD e da lontano contamino volontà d'animo, inimini manimo come lo shield super gigante o il giga di riserva con le rime di Fabrizio Libra. Chiamo trrr, raccolgo la strumentale, merda monumentale, vatti a documentare, vengo ad alimentare, mangio il beat come fosse un genere alimentare, sono elementare. Le R-I-M-E io le porto contro chi non sopporto, vi risparmio frasi fatte scontate tipo grazie per il supporto, al posto di un artigiano alla porta è meglio in casa morto. Che pressa e la droga in testa. Tra trattori e detrattori dai traditori in trappola di tra protesi, tra prof e il contro c'è l'ipotesi. CC, CC, cibernetico rap, vota sì, vota fi, vota mi. Rap metadonico, comico, malinconico, carico, scarico, fre. Le parole in mezzo al panico, panico, fatti chiari, vita lunga, prolunga, bunga, lo giunga, bunga, bunga. 7x7 per settoriale, sono settoriale, vettoriale, mezzo virtuale, mezzo reale, fissa il prezzo, un pazzo ti fissa che prendi un pezzo, paga il pizzo, gli schizzi di sangue sopra il pizzo, esibizionista, colazione, gesticolazione, respira affannato, vetro affannato, quello accannato, bello e dannato, lei la stendo sopra il tavolo e la sventro, collaboro, col diavolo. La scena la si fa con i dischi in uscita, se non fai un disco ogni tot prego quella è l'uscita. Il rap commerciale di 50.000 copie, le persone che lo sanno fare bene sono poche. Il rap underground vende almeno 1.000 copie, se non vende almeno 1.000 copie non sei underground. In effetti quando dici io sono underground è la prova che non sai in che categoria ti metti. Se non ti piaccio in TV, aspetta il resto, sono peggio di persona come un sequestro. Non mi piace chi insulta, senza fare i nomi uso l'immaginazione, prima o poi saltano fuori. La scena è mistica come la crisi, la scena è in crisi mistica, in classifica su TV sorrisi. E i canzoni, scrivo più di Manzoni su Palo Sta. E questa gente mi chiede ma rap come si fa? Senti questa, di chi buccia, sai già dove va la ganja. prima entra, poi ti mangia, tanta che ti passa in cassa, per casa in banca sbianca, pop pop pop pop, poi cosa ti manca? Ti marca il bar, la barca, Starbucks, Star Trek, Startup, il futuro è una smarta, Sparta, il lavoro ti spacca in quattro, come un killer che ti squarta, la metà di voi non capisce, chiusi in camera zitti zitti, quando il pezzo finisce, nella testa ti resta bip bip bip bip bip. Ci sono così tante nuvole a Milano che mi sembra già di essere in paradiso. Tanto fiordaliso, a Lecce con la Leciso, come se qualcuno mi avesse ucciso. Facevo concerti gratis quando cantavi testi complicati. Facevo concerti gratis quando facevo concerti gratis. Facevo concerti gratis quando cantavi testi complicati. Sono talmente stupido che sbaglio il remix. Obelix stupido, capisci la piscina, i ricchi a noi dubito. Arrivo ultimo, suono unico, affumico, fumino. Dici non fumo poi, caratiri, esce il mio disco e voi, caratiri. Ho cadute di stile, Ben Stiller, ogni tanta frequenza, vise stile. Canto qui poncile, tanto qui quanto lì è un porcile. Scusa ma tu non sei mai stato in Cile, allora cazzo parli, boh. Faccio come tutti, parlo di ciò che non so. In pista come Alonso, medaglia di bronzo. Prima di guidare mi sbronzo. Rapper italiani che per epe qua qua qua qua per epe. Politici italiani che per epe qua qua qua qua per epe. Più vuoi e meno avrai, più dai e meno prendi. Prima lo si impara, poi della corte, le bugie hanno le gambe corte, quindi sarò onesto, mi sono accorto che in amore, come nel porno, taglio corto. Gli attori porno invece dicono che nella vita è il contrario, fanno poco sesso se il contrario. È come se al ristorante entri e ti danno già il resto. Quale Marte? Io vengo dalle Marche, tutti lo sanno, mi piacciono le Marche. Adidas, Levi's, Gucci, Dolce Gabbana, hai capito? Mi piacciono le Marche. Io la strada giusta l'ho persa quando penso alla vita che immaginavo di fare con i dischi, come questa strofa era diversa.